Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. A Palestrina, vicino a Roma, c'è una scalinata che attraversa i giardini del principe. Alla base, prima che le scale comincino a inerpicarsi in alto, c'è una targa di marmo con un nome, scalinata Mark Sandman, musicista 1952-1999. Più in basso sulla destra c'è scritto Palestrina 2000 nel nome del rock. Ed è quindi nel nome del rock che oggi voglio raccontarvi la storia di Mark Sandman, che è il mitico frontman dei Morphine, un gruppo indie rock nato negli anni 90 sulla scena musicale di Boston, che ha trovato la morte proprio a Palestrina in Italia il 3 luglio del 1999, morto sul palcoscenico allestito proprio in quei giardini. Una vita stroncata troppo presto, una perdita per la musica di qualità. Quel giorno il concerto era appena iniziato, il gruppo aveva cominciato la seconda canzone, Sandman aveva appena fatto una battuta in un italiano imparato per l'occasione, il pubblico aveva riso e continuava a ridere quando improvvisamente Sandman si è accasciato per terra. Per qualche secondo la folla non ha nessuna reazione, si immagina che la caduta faccia parte di una gag, di uno scherzo. Purtroppo non è così. Passano i secondi, i compagni di Sandman capiscono che qualcosa non funziona, in un attimo gli sono vicino, ma non c'è più niente da fare. Mark è morto, è una morte, come dire, auspicabile per tutti quelli che suonano la morte sul palco, ma non certo a 46 anni. Il giorno dopo molti giornali titolano "Star del rock muore di infarto per overdose di cocaina". E l'equazione è molto semplice: sei una rockstar, sei morto di colpo e di sicuro ti fai di droga se ti viene un infarto perché hai preso troppa cocaina. E inoltre c'è quel nome, il nome della band, Morphine, che parla chiaro, sembra voler dire a tutti, voler evidenziare una vicinanza con un mondo tossicologico, diciamo. E quindi per qualche giorno tutto sembra evidente, le cose non stanno così per niente. I primi a reagire alle illazioni dei media sono gli amici più stretti, gli amici di una vita che sanno molto bene le abitudini di Mark Sandman, la sua riluttanza a giocare il ruolo della rockstar, di entrare in quei cliché. Lui è molto diverso e la sua fidanzata Sabine lo sa molto bene. Nel corso della sua vita aveva visto quanti danni faceva la droga e uno con il suo intelletto e la sua curiosità non era per nulla interessato all'autoeliminazione. Voleva accrescere la sua esperienza di vita, non abbandonarla. E per i giornali, però insomma sapete come sono i giornali, è più facile schedare la morte di Sandman nelle file dei morti per droga, anche per via del titolo, quello del loro album più famoso, Cure for the Pain, la cura per il dolore, cioè la morte, l'unica cura definitiva col dolore, no? Mark è uno che nella sua vita ha sofferto tanto e la gente forse pensa che lui non abbia più voglia di farlo o che abbia reagito chimicamente al dolore che la vita gli aveva provocato. E oggi però abbiamo la possibilità di scavare un po' più a fondo nella sua vita per cambiare non certo il corso delle cose, ma almeno per ridare dignità alla sua morte. Non si sa molto dell'infanzia, della gioventù di Sandman. Negli anni lui ha sempre evitato di parlare di sé, della sua famiglia, forse anche perché lui quando arriva al successo è già adulto e ha una decina d'anni di più della maggior parte dei suoi colleghi, diciamo così. Forse è imbarazzato, preferisce non raccontare, non dare date, non entrare nei dettagli. E quel poco che si fa, che lui nasce a Newton, che è un sobborgo a sud di Boston, il 24 settembre del 1952. La sua è una famiglia come le altre, la madre che lascia il lavoro come infermiera per coronare, diciamo, il sogno di una famiglia numerosa, anche perché il marito ha un lavoro sicuro come ingegnere. Infatti nei primi 8 anni di matrimonio i Sandman fanno 4 figli. Mark è il primogenito, poi c'è Martha, l'unica femmina, poi Jonathan e Roger. È una famiglia normale, ma anche con dei problemi. Sì, perché Roger, il più piccolo, è nato con una forma leggera di paralisi cerebrale infantile, è una malattia che ne pregiudica i movimenti e anche l'apprendimento. Però con gli anni i genitori capiscono che il figlio più difficile da seguire non è Roger con le sue disabilità, è proprio Mark, il primogenito, anche se è bello, intelligente, ma è ribelle e insofferente di quell'esistenza che invece i coniugi Sandman stanno facendo di tutto per assicurare ai loro figli. He sort of wanted unconditional love. Voleva che lo si amasse e lo si accettasse in modo incondizionato, ma non voleva seguire le regole o rispettare le convenzioni. Lui era un creativo, un artista, e voleva che rispettassimo quello che per lui era importante e che per lui era giusto. That's what we should respect. Durante l'adolescenza scopre la musica, vorrebbe vivere suonando tutto il giorno, però come accade spesso ci sono scontri in famiglia, soprattutto col padre che gli impone di frequentare l'università o di trovarsi un lavoro. Può continuare a suonare la sera se vuole, ma durante il giorno deve provare a guadagnarsi la vita, altrimenti verrà messo alla porta. Ribelle a ogni progetto di vita normale, Mark se ne va di casa dopo il liceo e per qualche anno, 6 o 7 anni, viaggerà per gli Stati Uniti alla ricerca di avventura, spesso magari vivendo in piccole capanne abbandonate ai margini dei boschi, mantenendo i contatti con la famiglia solo per mezzo di cartoline inviate dai posti nei quali sta andando: l'Alaska, San Francisco, il Colorado, addirittura il Belize, l'America del Sud. Insomma, un fricchettone itinerante fino a questo momento. Fa molti lavori occasionali, poi nel 72 a 20 anni lo scopriamo pescatore professionale, passano gli anni, poi lo troviamo a raccogliere funghi in Perù, senza indagare su che tipo di funghi, poi va in Brasile, insomma vive, sperimenta, cerca qualcosa verso cui indirizzarsi, però alla fine nella sua mente torna sempre in maniera prepotente la musica, comincia a suonare piccole band, anche qualche breve momento di notizia, qualche breve articolo che parla su di lui, che lui invia ai genitori, ma alla fine torna a casa e finalmente prende la tanto desiderata laurea, desiderata dai genitori ovviamente. Credo che desiderasse davvero la nostra approvazione e infatti noi eravamo felici perché credevamo in questi valori. Dovete capire che sia io che suo padre eravamo figli della Grande Depressione. La sicurezza era molto importante per me e io non vedevo niente di sicuro in quello che Mark stava facendo. Il ritorno a casa però coincide col primo grande dolore. Il piccolo di casa, Roger, quello che aveva delle difficoltà, muore alla fine del 78. Per un'infezione al cuore e dopo 18 mesi per una caduta accidentale da una finestra muore l'altro fratello Jonathan di 23 anni. Per Mark è un colpo durissimo e per tutta la famiglia, ma specialmente per lui è la mancanza di Johnny che lo fa soffrire. Johnny era il fratello col quale era più legato, quello che intercedeva con la famiglia, quello che appianava i contrasti, che ricollegava i fili rotti. Adesso Mark è davvero solo, però la perdita invece di annientarlo diventa poco a poco un modo per trovare uno scopo nella vita, per concentrarsi sulle vere priorità. After Johnny died. Dopo la morte di Johnny, Mark decise che era il momento di fare qualcosa della sua vita e che sarebbe diventato una persona speciale, e questo divenne il suo obiettivo. Ci criticava, credo anche giustamente, che noi non eravamo davvero interessati alla sua musica e che non l'ascoltavamo mai, che per noi la musica era solo un rumore di sottofondo, mentre lui diceva che quando suonava voleva che la gente ascoltasse, che ascoltasse quello che aveva da dire e quello che aveva fatto. Insomma, Mark capisce che nella vita non si può passare da un lavoro all'altro così giusto per sopravvivere, bisogna cercare di raggiungere qualcosa di più grande. Forse per lui questo è il modo migliore di onorare la memoria dei fratelli che non ci sono più, che non possono più realizzare i loro sogni. C'è un altro episodio che lo convince a focalizzare i suoi sforzi sulla musica. Tra i tanti lavori fatti, per un certo periodo lui guida anche il taxi e per lui non è neanche un brutto lavoro, perché è uno che ha un carattere solitario e timido e passa tutte queste ore guidando in silenzio, con incontri brevi distaccati con i clienti che salgono solo per una corsa. Insomma, è il mestiere del tassista per un animo solitario può essere adatto. Ci sono fiori di film famosi che ci hanno regalato il mito del tassista dietro un parabrezza che riflette le luci della notte, insomma, fino al mitico Taxi Driver. Ma è in una notte come tutte le altre che il mito si trasforma in una realtà violenta e pericolosa, perché durante una corsa Mark viene derubato, viene accoltellato al petto da un delinquente salito sul suo taxi. Una coltellata al cuore che colpisce Mark non solo fisicamente ma soprattutto psicologicamente. Il dolore si mescola con il senso della fine, quella dei suoi fratelli, ma anche della sua fine, così possibile, così a portata di mano. È troppi dolori in troppo poco tempo e l'unica cura al dolore è la musica. Trova casa nei sobborghi di Boston e questa volta prova a fare sul serio. Nel suo piccolo appartamento si trova con amici a suonare, con alcuni di loro nell'84 mette sulla prima vera band. Il gruppo si chiama Treat Her Right, cioè trattala bene, un nome che, come ha raccontato il chitarrista del gruppo David Champagne, secondo Mark sarebbe piaciuto alle ragazze. I Treat Her Right fanno un blues con venature di rock, fanno la gavetta, suonano nei locali di Boston. Il primo album viene prodotto da una piccola etichetta locale, Damon Record, poi arriva l'RCA con la quale registrano un secondo album. Le vendite non soddisfano le aspettative della major, la band viene lasciata al suo destino. In ogni caso, tra le varie canzoni di questo album intitolato Tied to the Tracks ce n'è una che si intitola No Reason. Sandman mette dentro tutto se stesso. Ve ne faccio sentire un pezzetto con il testo in italiano, capite cosa intendo. Took a knife wound in the chest. Presi una ferita di coltello nel petto. They took my money, then they left me for dead. Hanno preso i miei soldi e mi hanno lasciato come morto. Man is killed at a traffic light. Un uomo viene ucciso a un semaforo. I thought that could have been me inside. Pensavo che avrei potuto essere io. There's no reason in this life. Non c'è un perché in questa vita. Someone lives and someone dies. Qualcuno vive e qualcuno muore. And this should come as no surprise. E non dovrebbe sorprendere. 'Cause there's no reason in this life. Perché non c'è un perché in questa vita. I Treat incidono un terzo album con un'altra piccola etichetta, però Mark sta cominciando a interessarsi anche ad altri tipi di musica. È l'ultimo album dei Treat Her Right del 91, ma lui già dall'89 aveva cominciato a lavorare anche con altri musicisti, con un batterista Jerome Dupree e con un sassofonista Dana Cole. Insomma, è il nucleo di base dei Morphine. Dopo poco Dupree lamenta un problema di artrite alle mani. Sandman coglie la palla al balzo, coinvolge il batterista dei Treat Her Right Bill Conway, che entra permanentemente nella band che ormai si chiama Morphine. Billy and I were in another band. Prima dei Morphine, Billy ed io eravamo stati per lungo tempo in un'altra band chiamata i Treat Her Right, i Trattala Bene, tradotto. Dana invece era un amico che per un certo periodo era anche stato uno dei roadie per uno dei tour dei Treat e suonava il sassofono. Ero un grande fan di Dana e avevo sempre sognato di fare una band con lui. E beh, oggi siamo una band. We do it. Il falco. Il gabbiano. Stiamo raccontando la vita di Mark Sandman e dei suoi Morphine, la band che lui ha formato nel 1989, che si rivelano da subito un gruppo diverso, atipico, intanto per la strumentazione, perché oltre a Bill Conway che suona la batteria, ci sono Dana Conley che suona il sax, Mark Sandman che suona il basso a due corde, sì, un basso con solo due corde. Già all'epoca dei Treat Her Right, Sandman suona praticamente ogni canzone utilizzando solo le due corde sul fondo del basso. Quando inizia con i Morphine decide che è arrivato il momento di sbarazzarsi definitivamente delle corde che non usa più, e mi piace questa idea. In un periodo in cui i bassisti si hanno i cinque corde o addirittura i sei, che sono veramente il minimo del massimo, un basso a due corde è il massimo dell'essenzialità. Tutto il mondo è pieno di strumenti con due corde o addirittura con una sola. È interessante perché ogni corda possiede qualsiasi nota e quando ci si abitua questo fatto non risulta come una limitazione. E infatti anch'io ho iniziato con una sola corda perché era la maniera più facile per suonare. Poi gradualmente mi sono autopromosso a due corde e in questo modo mi sento già molto completo. Di nuovo Sandman riprende a far gavetta nei locali di Boston, però questa volta le cose cominciano a cambiare. Sono i primi anni 90, negli Stati Uniti sta nascendo l'epoca del grunge, anche la capitale del Massachusetts è pronta per accogliere ogni nuovo genere. Un gruppo come i Morphine è un gruppo nuovo e inusuale, è una band rock che però non ha chitarre e tastiere. Ci sono molti gruppi diversi in Boston, davvero migliaia, molto più di quanto si possa immaginare per una città che non è così grande. Ci sono tanti piccoli club dove poter sperimentare senza avere pressioni. Puoi suonare anche stando in un angolo, senza il palcoscenico, senza le luci, senza aspettative. Non devi neanche essere particolarmente bravo, basta che non irriti i clienti abituali. Puoi fare quello che vuoi. È in questo contesto che i Morphine hanno iniziato a muoversi. C'erano tanti progetti ed esperimenti e tutti i componenti dei Morphine avevano voglia di provare. Il primo album ancora con Dupree alla batteria del 91 si chiama Good, come promette il titolo, l'album è buono, viene accolto bene dai critici che riconoscono la particolarità del sound dei Morphine. Cerchiamo di suonare dolcemente e lentamente anche se non siamo proprio morbidi. Facciamo un rock basso, un cazzo di rock in realtà. Fuck rock actually. Anche la voce di Mark Sandman è molto bassa, in qualche modo possiamo dire che i Morphine trovano la loro chiave nella perfetta mescolanza dei suoni bassi, dove la voce, il sax, la chitarra, basso appartengono, diciamo, alla stessa gamma di toni. Ecco la grande scoperta. Insomma, la verità è che si capisce ben presto che i Morphine sono veramente degli innovatori, sono dei coraggiosi. Anche la presenza scenica di Sandman ha qualcosa di particolare, perché è un'epoca dove tutti i frontman si agitano attaccati al microfono, ci sono i Motley Crue, c'è David Lee Roth, insomma c'è questo rock così urlato e mosso. Bene, Sandman è asciutto, laconico e quasi in imbarazzo davanti al pubblico, come del resto molti del grunge in quel momento, Kurt Cobain compreso. A volte viene chiamato The King of Cool, il re del cool. Questo fortunato cocktail non è l'unica cosa che funziona nel gruppo. I componenti della band sembrano fatti uno per l'altro. Sandman, Cole e Conway hanno tra loro un'intesa profonda. Per Cole questa cosa ha una spiegazione interessante. E per Mark, lui dice, i due compagni di musica sono una specie di rimpiazzo dei fratelli persi. Specialmente Dana Cole, che suona il sax, come il fratello di Mark, che era Jonathan, detto Johnny. Durante uno dei nostri primi incontri nel suo appartamento, Mark prese la vecchia custodia di un sassofono dal piano più alto della libreria e mi disse: «Questo è il sassofono di mio fratello Johnny, ti spiace suonarlo?» Alludeva al fatto che Johnny non era con noi, ma non si addentrò in altri dettagli. Credo che volesse solo sentirne ancora il suono, forse solo sentirlo di nuovo riempito da un respiro. A due anni dalla pubblicazione dell'album Good, i Morphine fanno uscire un nuovo album chiamato Cure for the Pain nel 93, tanto per capirci l'anno in cui esce In Utero dei Nirvana. I Morphine sono una band sommessa, la loro cura per il dolore è comunque un album importante per la scena indie del momento, vende 300.000 copie, viene definito dalla rivista Rolling Stones come il miglior successo underground del 94. Molte canzoni dell'album diventano parte della colonna sonora del film Spanking the Monkey, il debutto del regista David Russell, quello di film come American Hustle. Ma Russell non è l'unico a volere i brani dei Morphine per un suo film, anche Carlo Verdone usa tre loro canzoni nel film Viaggi di nozze. Che pensi? Ammazza quanto è vecchia sta città. Proprio vecchia. E infatti. Il falco e il gabbiano. Quindi si sta facendo strada questo trio così particolare, composto da un basso a due corde, un sax e una batteria. Il nome è evocativo, naturalmente, Morphine, però in realtà ha poco a che fare con la droga e molto con il sogno. The word morphine comes from... Il nome Morphine viene da Morfeo, il dio dei sogni. E questo ci piaceva come concetto. So che c'è una droga che si chiama morfina, ma non è da quello che viene il nostro nome. That's not where we're coming from. Eh sì, Morfeo è figlio di Ipno, il dio del sonno, e di Notte, figlia di Caos, una delle divinità primordiali. Morfeo è quello che nelle sue apparizioni notturne porta i sogni alle persone, porta visioni, fantasie, illusioni. Forse scegliendo questo nome, Sandman vuole regalare visioni, fantasie, illusioni a chi ascolta la loro musica, una musica che cura il dolore, come il titolo del loro secondo e più famoso album, una musica che regala nella quiete del loro sound una parvenza di ristoro, ce lo spiega molto bene Dana Coley. La musica che faceva Mark sembrava piena di anima. Nell'era post-punk era come una boccata d'aria fresca per le mie orecchie. Come musicista ne ero influenzato. Facevamo parte della scena grunge, ma non abbiamo mai usato quegli strumenti standard, batteria, basso e chitarra. Suonavamo strumenti completamente diversi, solo perché per puro caso erano quelli che sapevamo suonare. Ne venne fuori un suono diverso, ma non credo che fosse voluto inizialmente. Ricordo il momento quando nell'appartamento di Mark capimmo che il suo basso con una sola corda e il mio sax sembravano lo yin e lo yang del suono, e poi su tutto questo la voce di Mark. Sembrava come una serratura con un lucchetto di soli tre numeri, ma con possibilità infinite. Dopo Cure for the Pain, i Morphine partono per un lungo tour negli Stati Uniti, in Europa, Giappone, Australia, e al loro ritorno pubblicano Yes nel 95, poi firmano un grande contratto con la DreamWorks Records, l'etichetta discografica di David Geffen e del regista Steven Spielberg, e pubblicano Like Swimming, il quarto album della band. Il quinto, The Night, viene completato nei primi mesi del 99, ma vedrà la luce, diciamo così, postumo, solo nel 2000. È un bel periodo questo per Mark. Il suo desiderio di fare qualcosa di speciale, di dare un senso alla sua esistenza, sembra avverarsi. I Morphine sono apprezzati dai critici, non vendono tantissimo, però hanno un loro mercato, un loro pubblico, e poi hanno una casa discografica alle spalle, insomma, che significa anche un futuro, un bel futuro. Mark sembra essere meno irrequieto, meno distante, ha una fidanzata fissa, Sabine, con la quale fa una vita normale, quasi regolare, con i rapporti migliorati coi genitori, e ci si vede più spesso. Ha preso l'abitudine di portare Sabina a pranzo da loro di tanto in tanto. Insomma, i genitori hanno cominciato a capire che la musica per il loro primogenito non è una perdita di tempo, ma una vocazione reale e una strada che lui segue con passione e finalmente anche con successo, e loro sono felici. Quando i Morphine sono di nuovo in partenza per un nuovo tour che li porterà in Europa, Mark è sereno, è pronto, anche se sono stati mesi faticosi. A volte lui sente il peso dell'età, 46 anni, fuma troppo. Qualche settimana prima di arrivare in Italia, mentre era seduto sul divano con la sua ragazza, ha un mancamento, sente un dolore al petto e lei vorrebbe portarlo al pronto soccorso, lui si rifiuta. Dopo qualche secondo tutto sembra tornare alla normalità e tutti pensano si tratti di una forte indigestione. Così, quando il 3 luglio si sta avviando con Bill e Dana a Palestrina, l'entusiasmo supera la stanchezza. Li sta aspettando un festival che si chiama Nel Nome del Rock. Guidavamo su questa strada tortuosa, su questa bella collina, circa un'ora da Roma, sotto i pini, lungo le antiche strade, le fontane di ciottoli. Il palcoscenico era stato messo verso il fondo della collina, sotto questo grande boschetto di alberi. Era uno dei luoghi più ideali che avevo mai visto, non ne parliamo poi per suonare. Il giorno dopo la temperatura era molto calda, c'erano circa 37 gradi sul palco. Mark sembrava pronto ad andare. Era seduto sopra il kit delle batterie di Billy, che suonava il Charleston mentre suonava il suo basso, aspettando di scendere al soundcheck. Era pronto a suonare, aveva un grande sorriso sul volto. Mark Sandman sale sul palco assieme ai suoi Morphine, suonano la prima canzone, poi è il momento di Mark di fare i saluti iniziali. Grazie Palestrina, è una serata bellissima, è bello stare qui, voglio dedicarvi una canzone super sexy. Subito dopo Dana Coley lo vede piegare le ginocchia e accasciarsi al suolo. All'inizio di Super Sex, la seconda canzone della nostra scaletta, il gruppo sta facendo un'introduzione, una specie di cosa improvvisata. Guardo la mia destra e vedo le sue ginocchia che si piegano. Cade con ancora il suo basso in mano e in quel momento tutto il pubblico si zittisce. La morte è istantanea. Infarto, nonostante tutte le illazioni, le maldicenze, i titoloni, si tratta di un semplice, imprevedibile, tristissimo infarto che lo porta via alla musica, al mondo e ai suoi genitori che perdono il terzo figlio in meno di 20 anni. Dopo la morte di Sandman, Dana e Billy creano l'orchestra Morphine per celebrare la musica di Mark. I proventi dei concerti vengono versati alla fondazione per l'educazione creata in suo onore. Oggi sono sicuro che Mark Sandman riposa tra le braccia di Ipno e della notte in compagnia di Morfeo e dei suoi fratelli Jonathan e Roger. Un meraviglioso lampo molto personale, una band unica in Morphine, già nella composizione, nel tipo di musica, e una vita difficile che si era rivolta al meglio con una serie di colpi d'ala e con una possibilità di volare che invece è finita ad ali spezzate. Questa è la storia di Mark Sandman. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco il gabbiano chiocciola radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi e a trovarci sui miei e nostri social. Ciao, a domani. Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Francesca Filiasi, produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni. Show!